che in prima pagina di Repubblica la foto che non aiuta Saviano, sicuramente ci saranno polemiche da qui ai prossimi giorni, ripeto, Max uscirà con questa foto ritoccata di Roberto Saviano steso su un lettino da obitorio, cadavere, con il titolo "Hanno ammazzato Roberto Saviano". Alle 8:19 minuti, eccoci con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Buongiorno Deborah. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vado subito con il mio argomento perché abbiamo i secondi che ci scappano di mano stamattina. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Soldi e Dintorni. Ben pochi di noi, per quelle che sono le abitudini che ci teniamo strette, troverebbero la pazienza e in un certo senso anche il coraggio di sottoporsi all'esperimento che andiamo a raccontarvi oggi. Intanto parliamo delle spese quotidiane che ognuno deve sostenere per la cura della propria casa, della propria famiglia. Cosa succederebbe se la modalità scelta per affrontare questo impegno cambiasse a dir poco radicalmente? Allora, noi oggi parliamo di e-commerce, ma nel caso della nostra ospite e dei nostri ospiti parleremo di acquisto virtuale, nel senso che è fatto attraverso il canale internet e poi è molto reale, che non resterà solo un evento, come dire, fatto da una persona che così mantiene questa abitudine per sé, ma poi la racconterà a tutti quanti. Francesca Sassoli, una collega giornalista, vivrà per qualche giorno comprando solo su internet e racconterà questa esperienza giorno dopo giorno. Io intanto la saluto. Francesca, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Mamma di un bambino di pochissimi anni, proprietaria anche di un cane, quindi già mi ha avvisato, non so cosa potrà succedere stamattina. Esatto. Impegnata magari anche già in qualche prenotazione di qualche articolo da acquistare su internet, ma vi voglio raccontare anche qual è lo spirito che anima tutta questa iniziativa, e abbiamo interpellato anche Roberto Liscia, presidente di Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano. Presidente Liscia, buongiorno. Buongiorno a voi. Posso partire subito da lei? Ci racconta che cos'è questa iniziativa, una trovata commerciale, pubblicitaria per parlare di commercio elettronico o qualcos'altro? Ma in realtà vogliamo vedere come una persona normale, come tutti noi, può vivere utilizzando questo canale, ed è una cosa fattibile che oltretutto sappiamo in anticipo che migliora la qualità della vita, perché in Italia ci sono 6 milioni di persone che acquistano online, ma ce ne sono 54 che non lo fanno, e i 54 che non lo fanno semplicemente perché non sanno che questo è un mezzo per vivere meglio, per vivere con più serenità e anche con più servizi e con più scelta. Ma non ci si fida, lo abbiamo raccontato qualche volta anche con lei Presidente nelle nostre altre trasmissioni, per tanti motivi, poi magari esploreremo anche il campo delle resistenze verso internet e verso il commercio online. Francesca Sassoli da ieri vive a stretto contatto con il suo computer, speriamo di non sottrarti ad un momento prezioso per qualche acquisto online. Per quanto tempo rimarrai incollata al terminale? Finché avrò cose da raccontare, quindi, e soprattutto, insomma, quanto avrete pazienza voi di ascoltarmi e di seguirmi in questa avventura. Devo premettere una cosa importante, Deborah, perché per molti addirittura vivere di solo e-commerce significa stare in casa davanti a un computer. Invece anche grazie a piattaforme, sbagliato, ecco. Grazie anche a piattaforme esterne e tutto quanto, anzi uno ha più tempo, perché se io faccio la spesa adesso, prima che Filippo si svegli per andare all'asilo, io posso fare la spesa, quindi poi anche oggi pomeriggio non lo devo impiegare, legare il cane fuori dal supermercato, Filippo che stacca tutte le cose dagli scaffali, ma domani magari mattina mi arriva la spesa. Certo. Quindi sicuramente è un metodo per risparmiare tempo. Ci sono molte resistenze, forse anche perché molti non usano il mezzo, insomma non tutti, anche quelli che navigano comprano. Io infatti sono abbastanza una neofita, come giornalista ho voluto farlo proprio io perché non sono tra virgolette la smanettona dell'e-commerce, quindi voglio imparare insieme a voi, a tutti voi, attraverso il mio blog che si chiama www.francescaonline.it a impratichirmi da, non so, domiciliare le bollette, che così le paga direttamente la banca, tante altre cose, di facilitarsi la vita, l'acquisto, lo shopping. Ah, ma allora sei proprio una neofita totale. Noi immaginavamo veramente solamente tutte le abitudini quotidiane, invece vedo che anche per esempio nel rapporto con la banca, che a noi sembrava per molti, per esempio giovani, perché tu sei sicuramente, sei molto giovane, un'esperienza, una prassi già consolidata, vedo che partirai da zero anche da lì, anche nel rapporto addirittura con la banca. Assolutamente sì, perché io sono proprio donna da sportello, proprio fisico, e invece vabbè, una banca deve essere già multicanale ad oggi, proprio per insegnare anche ai propri utenti a poter sfruttare il mezzo ovunque. Secondo me è anche importante iniziare proprio ad avere un contatto quasi fisico con il proprio conto. Certo. Cioè, e questo significa tantissimo anche per i risparmiatori, e internet dà anche tantissime piattaforme per capire i prezzi, per confrontarli. Infatti, allora ritorno da Roberto Lisci. Presidente, secondo i dati di Netcom, peraltro voi avete una ricerca, avete un campione monitorato di 46.000 intervistati, una cosa enorme. Il primo motivo per il quali i acquirenti potenziali non comprano online è l'impossibilità di accertarsi della qualità della merce. Secondo lei, Francesca, come potrà ovviare a questo problema? Ci sono dei servizi in rete che aiutano a farsi un'idea per fidarsi di più? È un problema che esiste veramente questo? L'accertamento della qualità, se mi consentite, è un falso problema, perché molto spesso noi compriamo delle cose che conosciamo, quando compriamo un computer piuttosto che un televisore, ma anche quando compriamo degli alimentari, ormai la qualità è conseguenza del brand che compriamo, del marchio che compriamo, del tipo di produttore che scegliamo. Quindi è un problema effettivamente che esplode nella sua virulenza quando si fa l'interrogazione a coloro che non hanno mai comprato online. In realtà poi ci sono tanti mezzi, nel senso che online si possono confrontare i prodotti, si possono chiedere delle valutazioni dai blogger e dagli altri acquirenti. Una cosa che va per la maggiore ormai è chiedere l'opinione di altri acquirenti sulla qualità del prodotto scelto, e questo sta avvenendo in maniera piuttosto importante, perché il numero di persone che chiede consiglio, come si faceva una volta con la vicina di casa o con la nonna o con la madre, ormai si è trasferito sul web come un fatto assolutamente normale. Io purtroppo devo già abbandonarvi questa mattina, ma continueremo a monitorare questa iniziativa. Francesca, 5 secondi di tempo, un'impressione dopo le prime 24 ore senza monete, banconote, casse del supermercato, cassiere e quant'altro, vivi di sola carta di credito, come va? Devo dire che io da proprio shopping compulsivo fisico per il momento va tutto bene, diciamo. Bene. Che mi sento un po' purificata. Qual è il primo acquisto che hai fatto? Il primo acquisto che hai fatto? Beh, la spesa, benissimo. Un bacione al tuo bambino, Francesca Sassoli, grazie per essere stata con noi. Presidente Liscia, un saluto anche a lei, ci risentiamo magari fra un mesetto e vedremo com'è andata. Grazie a voi. Buona giornata ad entrambi. Grazie. Ciao Alessandro. Eccoci qua, Salva Danaio. Oggi torno a monitorare l'andamento del mercato immobiliare, ma mi soffermo sui prezzi di garage, box auto, posti auto e queste cosine qua. Queste cosine qui, accessori vari. La Padania non esiste, lo ripete da due giorni il presidente della Camera Fini, è un problema che non c'è. Bossi ha replicato in maniera dura: ci sono 10 milioni di italiani pronti a battersi per la Padania. Poi ha parlato anche di calcio, l'Italia si comprerà la partita, ma questo è una dichiarazione così, una postilla. Che ne pensate di quello che dice Fini? La Padania non esiste. Radio24.it oppure 800 24 0024. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Parliamo di Padania e dei mal di pancia, insomma, tra Fini e Bossi sul concetto di Padania nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Alle 8:33 minuti, allora, quello che vi chiediamo è: siete d'accordo con quello che dice il presidente della Camera Fini? La Padania non esiste, non è mai esistita, è solo un'invenzione fortunata, magari, lessicale. Ma l'unica cosa che esiste è l'Italia e dovremmo esserne fieri, la nostra nazione, c'è solo la nostra Italia. Così ha detto il presidente della Camera Fini. Che ne pensate? Come detto, dovete votare su radio24.it, per ora vi state spaccando a metà, il 51% è d'accordo con Fini, 49% no, ma insomma siamo a metà, come detto. Matteo Salvini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eurodeputato della Lega Nord. Intanto, anche Libero oggi titola la padanata di Bossi. 10 milioni pronti a battersi per la Padania. Voglio sperare, perché insomma qualcuno fa notare che in passato di fucili si è parlato in maniera democratica, pacifica, sì. Ma ci mancherebbe altro, battersi in cabina elettorale, battersi in fabbrica o nel proprio negozio, nella propria azienda. Sulla scelta democratica penso che sia ben chiaro a tutti che è l'unica via di buonsenso da perseguire, che la Lega intende perseguire. Questa cosa della Padania che non esiste, allora, la Padania esiste o non esiste intanto? Il suo parere? Ma guardi, spogliamoci dalle accezioni politiche. Se fosse alla se fosse uno dei 500.000 maturandi, Fini sarebbe rimandato, se non bocciato. Perché io ieri sera ho curiosato 10 minuti su internet e ho visto che fin dal 1910 in un testo di geografia economica e sociale si spiega cos'è la Padania, ho visto che c'è tuttora in onda sulla Rai il Gazzettino Padano, Gianni Brera coniò il termine negli anni 70, la Fondazione Agnelli ne parlava negli anni 90, il presidente del Gran Consiglio del Canton Ticino l'ha citato 4 volte nel suo discorso di insediamento. La Padania è quella roba di cui ha scritto Luca Ricolfi, che è un sociologo liberale con simpatia di sinistra, scrivendo Il Sacco del Nord, è quella roba che esiste quando dà 50 miliardi di euro all'anno alle altre aree del paese, quindi la possiamo chiamare Padania, la possiamo chiamare Bernardo, Ambrogio, Gilberto, però la Padania dai secoli, dalla Gallia Cisalpina e Cispadana, che mi ricordo quando andavo al liceo, c'è. Che poi non esista come realtà statuale mi sembra chiaro ed evidente. E questo è abbastanza evidente. Cioè, quella roba lì che dà i soldi a Roma Ladrona, possiamo dire così? No, che è un'entità socialmente, storicamente, economicamente, geograficamente ben precisa. Ecco, quando il mitico Joan Carlo fu Brera, Joan Brera fu Carlo, parlava di Padania nel 1970, evidentemente Bossi, io non ero ancora nato e Bossi non aveva ancora iniziato a far politica. C'è. Che poi piaccia o non piaccia, che qualcuno la voglia indipendente, qualcuno la voglia all'interno di uno Stato federale, ma è come se dibattessimo sul fatto che la Sicilia esiste, è chiaro ed evidente che esiste la Sicilia, è lì, allora, è lì da vedere, gli Alpi ci sono, gli Appennini ci sono. Questo è il punto di partenza. Voglio salutare l'onorevole Enzo Raisi del Popolo della Libertà, buongiorno, buongiorno, tra l'altro considerato, definito un finiano. Ecco, allora, Salvini dice certo che la Padania esiste, Fini verrebbe bocciato alla maturità. Faccio una premessa. Sì. Allora, io sono convinto anch'io, sono d'accordo con Salvini, che per quanto riguarda la frase di Bossi è ridicola, anche se cade speculare su questo. La Lega è un partito democratico, ha sempre fatto scelte democratiche, quindi anche questi, come dire, richiami un po' folcloristici, qualcuno li definisce così, qualcuno dice richiami al proprio popolo, sono comunque nell'alveo della democrazia, nessuno può pensare o pensa, tantomeno la Lega e il Bossi, che è un leader che ha portato la Lega dei successi straordinari, non c'è ombra di dubbio, di poter arrivare. Insomma, questi 10 milioni di battere non deve preoccupare. E fa male chi in qualche modo cerca di speculare in questo, perché fa poi il gioco della Lega, poi in realtà, perché fa la vittima in politica e paga sempre, come dimostra qualcuno. Detto questo. Io sono rimasto stupito di qualcuno, che ha detto Salvini. Qualcuno chi, Raisi? Chi qualcuno, tutti quelli che fanno... Ah, chi fa la vittima in politica, va bene. Non aveva qualcuno in particolare. Torniamo al nostro punto. Sì. Io sono veramente meravigliato, perché ho ascoltato attentamente il ragionamento di Salvini. La Padania, che cos'è? È quel qualche cosa che dà i soldi, che prende... Cioè, vuol dire, quando si parla di una realtà... che in qualche modo si vuole far diventare nazione, perché qui la Lega parla di nazione padana, attenzione. Nazione padana vuol dire culture uguali, lingua uguale, storia uguale, vuol dire avere radici antiche che ovviamente hanno portato nel secolo a dare un'identità a quella realtà. Allora, guardi, io sono figlio di Veneti, perché mio padre era Veneto, sì. Madre spagnola, nato a Bologna, sempre vissuto a Bologna. Lei mi spiega che cos'ha un bolognese, guardi, non mi spingo a Piemonte, sì. vado vicino a me, con un piacentino o con un romagnolo. Questo però per esteso si potrebbe dire che ha a che fare un trentino con un palermitano. Mi faccia finire, se non l'identità italiana, punto. Ecco. Cioè l'unica cosa che mi unisce è una lingua comune, una storia comune di un grande paese, che comunque ha raggiunto 150 anni di unità, ma che dietro ha avuto anche una storia unitaria. Che ha avuto una strada comune, ha avuto una cultura comune, ha avuto, vuol dire, padri che hanno creato questo tipo di realtà. Del resto no, perché altrimenti se ci mettiamo al localismo, ognuno ha la sua località. Lei dice esiste la Sicilia, vuol dire peraltro è un'identità forte, vuol dire la Padania no, cioè veramente mettere insieme. ma anche a livello di interessi economici e sociali. Voi pensate, parliamo di industria, così entriamo in uno degli argomenti che piace tanto alla, giustamente, piace molto anche a me, piace tanto alla, ai leghisti. Ma l'economia del Piemonte che cos'ha di simile con l'economia del Triveneto o dell'Emilia Romagna? No, ma si fermi qui su questo, Salvini, su questo che affinità ci sono? Cioè, voglio dire, quello che ci tiene uniti adesso dal Trentino alla Sicilia è la lingua, è l'appartenere, l'unità nazionale, ha una storia che si può criticare oppure no, eccetera, ma che c'è tra un Veneto e un Ligure e un Romagnolo e fino alle Marche, perché ieri Borghezio ci ha detto che si arriva fino alle Marche. Ci sono delle differenze che sono il bello della Padania e dell'Italia, perché la valorizzazione della diversità è il bello. La Svizzera è uno stato unico, confederale, con quattro lingue, quattro religioni, quattro cantoni. No, non si capiscono se tu passi dal Vallese al Canton Ticino, al Canton Uri, parlano lingue diverse, ma stanno insieme, perché hanno un idem sentire, hanno un'economia comune. Che cosa tiene insieme il Piemonte, la Lombardia e il Veneto? Ma li tiene insieme un certo tipo di cultura del lavoro, del merito, della famiglia, un certo tipo di sistema scolastico, sistema sanitario. Se prendete, ripeto, che c'è in Padania, che sono inattendibili. Lo studio della Fondazione Agnelli del 1992, che sicuramente non può essere accusata di simpatie leghiste, spiega magari a chi fra gli ascoltatori volesse curiosare qual è l'omogeneità della Padania dal punto di vista delle infrastrutture, delle culture, delle lingue, della cucina, del teatro e del sistema economico. Allora, visto che tra l'altro lei ha parlato di Svizzera, vi sta ascoltando e lo voglio salutare, è con noi dall'inizio ma l'abbiamo fatto ascoltare, Oscar Freisinger, buongiorno. Buongiorno. È deputato al Parlamento svizzero dell'Unione Democratica di Centro, esatto? Sì. Certo. Allora, lei è firmatario di una proposta che viene da uno psichiatra, credo, oltre che politico svizzero, vale a dire Dominique Bettig, che ha proposto dal Canton del Giura di chiedere al governo di modificare la Costituzione svizzera per allargare i confini della Svizzera e annettere il Baden-Württemberg, vabbè, e questo ci interessa poco, ma la Savoia, ma soprattutto la Valle d'Aosta e le province lombarde di Como e di Varese. Che volete fare? Volete espandervi? No, non è il caso che la Svizzera sarebbe divenuta un paese che vuole conquistare gli altri paesi, ma è solamente per dare un segnale. La prima cosa è un po' è polemico, è certo, per dire, guardate, l'Europa non funziona come è fatta oggi, perché la gente non si riconosce nel modo di fare, nel modo del governo, no? Perché sembra alla gente che si fa tutto sopra le sue teste e che non hanno la possibilità di influenzare veramente la politica. E qui in Svizzera abbiamo un sistema che fa che è una confederazione e c'è la democrazia diretta. Allora la gente è implicata direttamente nelle decisioni, nella politica. Ogni giorno andiamo a votare quattro volte l'anno su temi diversi, è un sistema che funziona veramente benissimo. Ma le chiedo, sarebbe esportabile. Le chiedo, sarebbe esportabile. Perché, cioè, pensate le province di Como, Varese e Valle d'Aosta? Perché le considerate in qualche modo affini più a una cultura, a un modo di pensare svizzero che italiano? No, non ha a che fare con questo, perché la cultura svizzera non esiste, è solamente un progetto di Stato attorno a una costituzione, un modo di fare, un modo di praticare la politica e di vivere insieme, perché c'è la gente che parla tedesco, francese, italiano, è molto diverso, ma funziona bene. Allora, se altri nel futuro, non si sa mai cosa succederà, perché io penso che l'Unione Europea va a esplodere, un giorno succederà, ci sono problemi a venire che sono grandissimi. E forse ci saranno delle regioni attorno a noi che una volta forse vorranno venire la Confederazione. E voi dite, per quel che riguarda Como, Varese, la Valle d'Aosta, noi braccia aperte, insomma, se volete. Tra l'altro, mi risulta, onorevole Raisi, la provincia di Como, giornale di Como, ha fatto un sondaggio, il 70% dei comaschi ha detto sì, andremo in Svizzera, è volentierissimo. E guardi, io penso che se lei chiedesse al 70% dei bolognesi dovrebbero andare a Bahamas, ma non sono questi i ragionamenti, scusate, perché ci sono delle provocazioni che alle volte sono veramente inaccettabili, perché anche come ha detto il deputato svizzero, ma come si fa a dire queste cose per provocazione? Ma voi vedete che siamo in una situazione di grande conflitto sociale, perché la crisi economica è quella che è, cioè non è che ci vogliamo nascondere. È evidente che qua ognuno tende ad individuare il proprio piccolo interesse, e su questo giocano anche certi movimenti, cioè sul fatto che in questo momento, chiaro, c'è poco da distribuire e allora la gente dice: io non distribuisco niente, me lo tengo per me. Ma così disfi il tessuto sociale, così spacchi gli stati, spacchi la gente, cioè non costruisci niente, tanto che costruire un nuovo paese. E lui dice: noi tanto l'Europa non funziona, aspettiamo che si spacchi l'Europa, poi costruiremo una grande Svizzera. Questi sono i ragionamenti pazzeschi che ci sono dietro a queste culture localistiche. Io l'ho visto nella mia Spagna, perché come ho detto mi stava a cuore là, ma io ho visto quando si è innescato il processo catalano, ma là dovete vedere l'odio che si è creato tra i catalani e il resto di Spagna. Ma un odio, perché quelli sono ricchi, tra l'altro l'odio maggiore è determinato da chi? Dai figli dei manceghi, degli andalusi, degli estremaduregni, che sono andati là a lavorare, a creare la ricchezza della Catalogna, e oggi i figli che sono nati lì chiaramente dicono: vabbè, noi siamo i ricchi, quelli sono i poveri. Ma lei dice interessante, cioè questi localismi rischiano di creare invece tensioni sociali, di spaccare il tessuto, la coesione nazionale. Quello che ha detto Fini, cioè che ha detto, ribadendo alla questione della Padania, non ho paura dell'unità nazionale, ma la coesione nazionale, con queste dichiarazioni, insomma, temo che possa reggere, che possa essere sempre così forte. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, la Padania esiste o non esiste? 800240024, di questo ci stiamo interrogando. Luciana, dalla provincia di Mantova, buongiorno. Eccomi. Lei si sente in Padania? Perché Mantova? No, guardi, io sono mantovana e so di abitare in pianura padana. Sì. La Padania è veramente un concetto che non esiste. Ma proprio non esiste fortemente nei miei concittadini. Io vorrei capire dove ha calcolato quegli accidenti di 10 milioni di padani disposti alla secessione, non so, forse... armati o, no, o arma... con una scheda in mano, non mi interessa. Interessa invece questo, è la cosa fondamentale, Luciana. Penso che né con il voto, sì, né con le armi che ogni tanto vagheggia Bossi, questo concetto di Padania, che ne abbiano detto i suoi esperti prima, per lei non esiste, lei non lo sente, non esiste. No, guardi, senta, non esiste. Non esiste, sarebbe stato bocciato la maturità come suo figlio, eccetera, eccetera. Poi, comunque, io non sono un'elettrice di destra, però stavolta sono proprio confine. Grazie, Luciana. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, Alessandro. Dica. Ma io volevo lanciare questa provocazione. Già la Costituzione prevede la possibilità di unire attraverso la strada del referendum alcune regioni. Sì. Volevo dire ai leghisti, se esistono veramente questi 10 milioni, e questo sicuramente non è stato riscontrato nelle ultime tornate elettorali, neanche dopo i grandi successi, perché al massimo si arriva a 3-4 milioni di voti, se hanno veramente la certezza che esistano, perché non indicano un referendum per unire le regioni che credono che siano padane? Perché è uno strumento che già esiste ed è costituzionale. Allora, grazie Marco. Onorevole Salvini, come sono usciti questi 10 milioni secondo lei? E poi qui c'è appunto Oscar Freisinger che dice, un po' per provocazione ma anche in previsione del fatto che secondo loro l'Unione Europea crollerà, per chi vuole, insomma, siamo qui, insomma, potremmo aprire le porte. Il bello della democrazia è che ciascuno è libero di pensare, cantare e sentirsi come meglio ritiene. Io sentivo le vostre informazioni sul traffico. La Padania in coda esiste, è quella roba che io sentivo su Radio 24 tre minuti fa, che è in coda a Milano, a Torino, a Trento e a Mestre, ad esempio. Vabbè, ma che c'entra questo? Avete detto traffico in Padania, no? Spero di no. È stato il vostro giornale radio sul traffico, io ho solo ascoltato. Quello che mina l'unità nazionale, vede, non è la Lombardia, il Veneto che chiede di tenere più soldi sul suo territorio. Quello che mina l'unità nazionale, lo voglio dire all'onorevole Raisi e all'onorevole Fini, è il fatto che il comune di Roma abbia accumulato 10 miliardi di euro di debito, il fatto che la regione Lombardia abbia 3.000 dipendenti e la regione Sicilia 30.000, è questo che allontana dal sentimento unico. Ecco qui domani, il fulcro dello scontro, insomma è uno scontro politico. Ma sono questioni sicuramente di idee, di lingua, di cultura. Giorgio Gaber cantava negli anni 70 "Io non mi sento italiano" . E sicuramente non era iscritto alla Lega Nord. Però questi 10 milioni da dove vengono? Cioè, perché 10 guardi, milioni? Cos'è la Lega ha preso 3 milioni di voti democraticamente alle ultime elezioni. Io girando per le fabbriche, la Indesit in crisi a Brembate o la Maflo in crisi a Trezzano, la gente non è più disposta a pagare per non si sa che cosa. Quindi io sono convinto che se domani chiedessimo, sto con l'ascoltatore, noi stiamo cercando come Lega di tenere insieme questo paese. Per assurdo siamo noi che stiamo cercando di tenere insieme col federalismo che valorizza i meriti e le differenze, però se noi chiedessimo domani mattina a Piemonte, Lombardia e Veneto, Emilia e Liguria, volete star per vostro conto e tenervi a casa vostra l'80% delle tasse del lavoro che producete, lei immagina che meno del 95% no, c'è un plebiscito e questo onorevole Raisi, questo è il problema, cioè il nord, guardi, posso dire una cosa, ripeto il concetto, cioè, i ragionamenti sono di così basso livello, cioè fondate sulla crisi sociale, e adesso io non vorrei fare una battuta pane alto per tutti, ma è evidente che hai sempre la maggioranza o hai gente che dice sì. Il concetto è un altro, vede, Salvini ha detto una cosa giusta, ci sono in realtà del sud delle amministrazioni che sicuramente sono censurabili. Dico però a Salvini, che sicuramente sono d'accordo su questo, dico però ricordo a Salvini che ad esempio la regione in assoluto che dà di meno e prende di più si chiama Trentino Alto Adige, che non so, ripeto sempre, dà nemmeno, ma comunque nel nord. Ricordo a Salvini ad esempio che la mia regione Emilia Romagna, che so che per loro è la Padania, sono i territori d'oltre Padania, perché noi siamo dopo il Po, però sempre collocati vicino a loro. No, Borghezio dice fino alle Marche arriva la Padania. Sì, vabbè, sì. Ma come la Guyana, no? La Guyana è francese, però è un territorio d'oltre mare. Cioè, voglio dire, detto questo, da noi ci sono tre OSL a Bologna, non a Canicati, a Bologna, che ha fatto bancarotta, quindi c'è da andare a cercare la sanità malata, non c'è bisogno di andare in Calabria. Sì. Poi certo, sono d'accordo, è chiaro che lì hai degli esempi incredibili e lì c'è sicuramente una, purtroppo, una responsabilità di una classe dirigente del sud che ha dato delle praterie alla Lega per speculare su alcune questioni. Insomma, questo però è un problema. Ma detto questo, la mia domanda è questa: se noi ad esempio quei famosi 80 miliardi che loro vogliono che tornino al sud, li diamo al sud per farla diventare una grande piattaforma per l'Europa nel Mediterraneo, per la penetrazione industriale in quel mercato che è uno dei mercati del futuro, per esempio. Sarà una cosa più intelligente piuttosto che dire cari campani, cari pugliesi, cari siciliani, arrangiatevi e morite perché non ce ne frega niente. Allora, su questa domanda io ho un minuto e mezzo, però vorrei concludere con il nostro Oscar Freisinger, anche per il dovere di ospitalità, insomma il nostro deputato al Parlamento svizzero dell'Unione Democratica di Centro, ma gli ho detto un po' una provocazione, pensate di spingervi oltre, cioè che cosa lo statuto elvetico prevede per come possibilità per la vostra proposta? Mi sembra un po' difficile. No, per il momento il governo ha risposto di no, ma per noi era solamente un segnale da dire che finalmente la Svizzera è il cuore dell'Europa e non fa parte dell'Unione Europea perché è un sistema molto centralizzato, le 85% delle leggi che importano per la vita di ogni giorno di un italiano, per esempio di un tedesco, sono decisi a Bruxelles. Allora i governi nazionali non hanno più molto potere in questo sistema molto centralizzato. E penso che una volta forse tutto cambierà e perché no utilizzare il sistema svizzero per definire una nuova Europa che funzionerebbe in un altro modo. E allora, onorevole Freisinger, mi faccia fare quest'ultima domanda perché è una cosa su cui ci arrovegliamo da giorni. Ma è vero che quanto guadagna un politico in Svizzera? Pochissimo, perché siamo, come si dice, io sono insegnante in un ginnasio, allora per 65% e per il resto sono nel Parlamento, dunque sono ogni giorno in contatto con le ma ho capito perché sai, in Italia c'è tutta la questione della casta, cioè c'è uno stipendio per un parlamentare svizzero? Boh, guadagniamo pochissimo perché siamo pagati un certo, come dire, un gettone. Sì, voilà, gettoni per la nostra presenza. Ma mi quantifichi, un parlamentare in Italia guadagna 12.000 euro al mese, per dire, in Svizzera mi quantifichi quant'è, 100 euro all'anno o 1.000 euro più o meno? Ma 100.000 franchi all'anno. Tradotto, 100.000 franchi mi aiuta, quant'è in euro? Sarebbe 70.000 euro. Beh, insomma, cioè come stipendio di parlamentare. Allora c'è. Perché dopo che uno esce del Parlamento non c'è una pensione, qualcosa di questo genere, deve ricominciare a lavorare al suo lavoro di prima. Però 70.000 euro, cioè, ci sono garantiti dal Parlamento. Vabbè, insomma, questa è una notizia, perché ci dicevano sempre guadagnano zero. Vabbè, ringrazio tutti. Sara Sperafico in redazione, Peter Bescapè in regia, dalla linea Oscar Giannino. Ci troviamo stasera, se volete, alla Zanzara, se no domani. Ciao.